Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buongiorno e buona domenica a tutti, benvenuti a Magazine 24, appuntamento come sapete con i settimanali, con i mensili italiani e stranieri. Vi segnaliamo articoli interessanti, importanti o comunque che giudichiamo meritevoli della vostra attenzione, magari di una lettura. Questa mattina voglio partire con la rubrica di Sergio Romano che ho trovato su Panorama di questa settimana. La rubrica si chiama L'Europeo. Perché vorrei partire da questo? Perché si parla di populismo. Ora, anche i giornali stanno man mano scoprendo, voglio dire, i giornali quotidiani, questa avanzata delle posizioni più conservatrici, in qualche modo più populiste, appunto, più di chiusura rispetto a tante paure che possiamo avere, paura della nuova tecnologia, paura dell'immigrazione e così via, insomma. Si occupa del tema Romano con degli appunti molto interessanti. Allora vi leggo qualche brano proprio da Panorama. Dice: l'ingresso nel Parlamento svedese di un piccolo partito della destra populista, che si chiama i Democratici di Svezia, è anzitutto un problema locale. Come sono locali, per esempio, l'importanza assunta dal Partito Popolare danese in Danimarca, quella del PVV di Geert Wilders, il biondo tribuno, che considera il Corano una specie di Mein Kampf, nelle interminabili trattative per la formazione del governo dei Paesi Bassi. Però questi altri partiti europei, argomenta Romano, presentano alcune somiglianze. Hanno collocato il tema immigrazione al primo posto della loro agenda politica, difendono l'identità nazionale o locale contro l'invasione straniera, sembrano rispondere ai sentimenti di una parte ancora piccola ma crescente dell'elettorato europeo. Avverte innanzitutto Romano, il fenomeno non è nuovo. Quasi tutti questi movimenti entrano in scena negli anni 90, quando il nemico da combattere non era ancora l'immigrazione, era la globalizzazione. Denunciano poi il pericolo musulmano dopo l'11 settembre, agitano il drappo rosso dell'immigrazione soprattutto dopo la crisi del credito e la recessione degli ultimi 3 anni. Gli slogan cambiano secondo le circostanze, ma l'elettorato e le ragioni della protesta sono fondamentalmente gli stessi. E allora Romano prova ad analizzare il perché, devo dire lo fa con molta franchezza, senza diciamo adagiarsi su magari delle spiegazioni di comodo, e dice: il caso della Svezia in questa prospettiva è particolarmente indicativo. La coalizione moderata di Fredrik Reinfeldt al potere dall'elezione del 2006 sta intaccando la filosofia del più generoso stato assistenziale del continente. Come sapete, la Svezia è sempre stata nota per avere un welfare, cioè un sistema di assistenza, di previdenza molto generoso, molto solido. Ha ottenuto questo partito, che ha dovuto in qualche modo ridurre le tutele, ha ottenuto sul piano economico e finanziario buoni risultati, però ha creato un'area di malumore che, dove si sono trovate persone che hanno perduto il vecchio lavoro o più semplicemente hanno perduto alcuni dei benefici a cui erano abituate. Allora la rabbia esplode, scrive Romano, non appena queste persone confrontano la propria situazione sociale con quella delle comunità straniere a cui lo Stato centrale o i governi locali garantiscono condizioni troppo favorevoli. La situazione non è molto diversa laddove esistono forti comunità rom stanziali come in Ungheria o recentemente immigrate come accade nella Francia di Sarkozy. Si è parlato soprattutto in questi mesi della propensione alla criminalità, ma è probabile che i furti e l'accattonaggio siano poi meno importanti per gli elettori dei partiti populisti del pubblico denaro che verrebbe speso per il loro sostentamento. Allora la conclusione di Romano è la seguente: è fuorviante mettere l'accento soltanto sull'esistenza di sentimenti razzisti e xenofobi. Questi sentimenti esistono, ma il vero problema è quello del passaggio dallo Stato papà, come i tedeschi chiamano il welfare state, a uno Stato in cui i conti pubblici chiedono rigore, l'economia mondiale impone le regole della concorrenza, la crescita esige braccia straniere. Sono 3 imperativi non facilmente conciliabili. Visto che parliamo di comportamenti italiani e esteri e ne abbiamo parlato a proposito di un problema non facile come quello appunto dell'intolleranza, anche di questo neopopulismo, se vogliamo appunto definirlo così, vediamo una classifica un po' più rassicurante, quella che è apparsa su 7 in edicola da giovedì con il Corriere della Sera, dove vivono le persone invece più generose del mondo. Quindi qui siamo proprio agli antipodi del populismo. Allora, secondo un rapporto che si chiama World Giving Index dell'istituto di ricerca Gallup, ha fatto il giro di 153 nazioni, il 95% della popolazione totale, ci avvisano appunto nella rubrica curata da Donatella Bogo, e ha stilato la classifica dei paesi in base al loro tasso di filantropia. Nel calcolo hanno tenuto conto di tre voci: numero di donazioni, tempo speso nel sociale, volontà di aiutare gli stranieri. Al primo posto risultano l'Australia e la Nuova Zelanda. Poi ci sono l'Irlanda e il Canada, poi la Svizzera e gli Stati Uniti, poi l'Olanda, infine il Regno Unito e lo Sri Lanka. Al decimo posto l'Austria, l'Italia dov'è è 29esima secondo questa classifica. Meglio di noi fa la Germania, mentre non così accade alla Francia, paese simile all'Italia, che però si è classificata al 91esimo posto. Ci sono poi due paesi relativamente poveri come il Laos e la Sierra Leone che si piazzano all'11esimo posto. Questa è la classifica appunto della filantropia mondiale vista su 7 in edicola con il Corriere della Sera. Passiamo a tutt'altro tema. Non so se nella vostra vita lavorativa o nella vostra vita avete necessità di scrivere, anche solo di scrivere dei documenti per lavoro, e vi è mai capitato di sperimentare quello che si chiama il blocco dello scrittore, cioè di trovarsi di fronte alla pagina e non sapere proprio come venirne fuori. Vanity Fair ha provato a chiedere come superano il blocco dello scrittore a un po' di scrittori, cioè a un po' di gente che di mestiere deve proprio scrivere, non può rimandare in altro momento questa attività. E hanno fatto un giro di opinioni: siete in crisi, fate come noi. Abbiamo chiesto, spiega nel servizio curato da Enrica Broccardo e da Camilla Strada, agli autori del Festival Letteratura di Mantova come affrontano il blocco dello scrittore. A qualcuno l'ispirazione non manca mai, altri invece la trovano in un biscotto o in bagno o addirittura nella fisica nucleare. Ecco, il caso dei biscotti è quello di Antonia Aslan, che l'autrice di La masseria delle allodole, e dice: quando mi blocco ascolto musica popolare e mangio biscotti, perché i biscotti mi stimolano l'energia mentale. Questo è il consiglio della Arslan. Ci sono poi quelli che invece tengono dei libri sulla scrivania, dicono: mi basta aprire un libro per risvegliare emozioni e parole. Domenico Stanone dice: basta una frase buttata lì, anche sentita per caso, ascoltata per strada, e riesco a ritrovare appunto qualche spunto per ispirarmi. Viene citato anche il direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, che dice: amo il silenzio per concentrarmi ed evadere dalla pressione alla quale siamo sottoposti dal flusso ininterrotto di notizie. Quindi tornare al silenzio è per lui un'occasione per ritrovare ispirazione. E poi José Altafini, che diciamo non è propriamente uno scrittore, è un commentatore TV, ma ha anche scritto un libro di recente, si chiama tra l'altro Incredibili Amici, che è una delle sue esclamazioni favorite da commentatore televisivo. Dice: la fonte di tutto quello che di creativo faccio nella vita per me è l'automobile. Io quando viaggio mi vengono in mente un sacco di idee, la macchina è il mio ufficio, è il mio laboratorio. Questo dice Altafini. Vediamo qualche altro consiglio. C'è addirittura David Peace, che l'autore di Tokyo Città Occupata, dice: io quando non so più cosa scrivere prendo un libro scritto da qualcun altro, comincio a copiarne dei pezzi. Questo mi serve, non naturalmente a scrivere il suo libro, ma precisa lui, mi serve a fare esercizio di scrittura. E poi invece ci sono quelli che fanno proprio qualcosa di diverso. La scrittrice giapponese Natsuo Kirino dice: la cosa migliore è fare qualcosa di diverso, mi metto a cucinare, porto a spasso il cane, faccio il bucato, qualunque cosa tranne che tentare di continuare a scrivere. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Io non so quanti di coloro che ci stanno ascoltando sappiano chi sia il trio Lescano, chi siano state le componenti del trio Lescano. Probabilmente non moltissimi, però immagino che una percentuale molto più alta conosca invece o abbia sentito canticchiare Maramao perché sei morto, oppure Tulli Tulli Tullipan e altri motivetti di questo tipo. Bene, il trio chi cantava il trio Lescano? Perché ve ne parlo? Perché su Famiglia Cristiana Eugenio Arcidiacono ci presenta una serie di cose che andranno in onda, andranno poi sul palco in questo periodo. Cominciamo dalle cose più vicine a noi. Su Rai 1 lunedì, cioè domani, martedì, andrà in onda appunto Le ragazze dello swing. È una fiction dedicata proprio alle ragazze del trio Lescano. La storia di queste ragazze, di queste tre ragazze, è poi molto interessante, come appunto potete ritrovare in questo articolo di Arcidiacono. perché dice praticamente nessuno sa che quelle tre ragazze non erano italiane innanzitutto, ma erano olandesi. Furono tre ragazze popolarissime nell'Italia del periodo fascista, ma furono perseguitate per le loro origini ebraiche e nel dopoguerra sparirono di fatto nel nulla. Un oblio dovuto anche al fatto che di loro restano, oltre alle incisioni, solo una manciata di foto e una piccola comparsa in un film che si chiamava Ecco la radio. La loro storia è ora raccontata in un libro appena pubblicato che si chiama Le regine dello swing di Gabriele Schenazzi. C'è poi naturalmente l'annuncio di questa fiction e si fa anche un po' di storia delle tre ragazze. La loro vicenda parte da una notte del 1924, quando un uomo abbandona la moglie e le tre figlie, appunto Alexandra, Judith e Kitty, fra i carrozzoni di un circo. 12 anni dopo, quindi nel 1936, queste tre ragazze sono a Torino, cercano di farsi strada nel mondo dello spettacolo. Era il periodo in cui naturalmente tutti gli artisti dovevano essere italiani o italianizzati. Addirittura Louis Armstrong, ricordo Arcidiacono, nelle locandine veniva presentato come Luigi Braccioforte, con una traduzione letterale del suo nome e cognome. Anche le sorelle, che si chiamavano Leschan, dovettero quindi adeguare, diventarono il trio Lescano. Furono scritturate da Leier, era l'ente appunto italiano delle audizioni radiofoniche, e nel 1938 ebbero un successo immediato e travolgente. Quando però cominciano le leggi razziali vengono escluse dalla radio, quindi continuano a esibirsi nei teatri. Nel 1943, quindi in piena guerra, si stanno esibendo in uno spettacolo a Genova, i nazisti irrompono in un loro spettacolo, le accusano non solo di essere ebrei, ma addirittura di inviare messaggi criptati al nemico attraverso la canzone Tulli Tulli Tulipan, che immagino molti di voi conoscano, il che fa capire anche la consistenza di questa accusa. Già qualche anno prima erano finite nei guai, in realtà, perché qualche funzionario molto solerte del regime aveva pensato che Maramao, perché sei morto, fosse in realtà una parodia di Costanzo Ciano, il padre di Galeazzo, che era scomparso appunto da poco quando era stata incisa questa canzone. In realtà, spiega il regista della fiction che andranno domani, credo che alle tre ragazze della politica importasse ben poco, volevano sostanzialmente cantare, fare una bella vita, ma furono poi travolte da eventi più grandi di loro. Per capire poi come è andata a finire vi rimando naturalmente sia alla fiction sia in primo luogo all'articolo di Eugenio Arcidiacono su Famiglia Cristiana. Una domanda futile, ma che può avere un suo interesse. Chi ha inventato il cruciverba? Della questione si è occupato Focus, non sul numero che trovate in edicola adesso, che è già il numero di ottobre. Tra l'altro abbiamo già segnalato anche degli articoli nella puntata proprio di ieri di Magazine 24. Dicevo, si è occupato Focus della paternità del cruciverba. Chi ha inventato il cruciverba? L'ha assegnata agli americani però un lettore dice: guardate che non è così, perché in una lettera appunto inviata al Focus dice: vorrei segnalarvi che il cruciverba ebbe una paternità italiana, la differenza di quanto scritto eccetera eccetera. Infatti il 14 settembre del 1890 Giuseppe Airoldi Lecchese pubblicò sul Secolo Illustrato un cruciverba che era composto in un modo molto semplice. Erano quattro caselle verticali, quattro orizzontali, e le parole erano tutte incrociate tra di loro, una sorta di quadrato magico, se volete. A differenza di quello attuale, era un semplice riquadro, spiega sempre il lettore. Non c'erano le caselle nere che verranno poi aggiunte in seguito, ma ciò non toglie che si possa parlare di cruciverba. L'autore dell'articolo risponde al lettore, il lettore si chiama Andrea Mangione e puntualmente manda anche cruciverba e definizioni, le trovate su Focus. Mauro Gaffo, che è l'autore dell'articolo, dice: beh sì, ma la risposta è già nella lettera del lettore. Lo schema infatti di Airoldi non prevedeva le fatidiche caselle nere, e lì sta tutta la differenza, spiega Gaffo, perché la differenza è che fu questo artificio, quello delle caselle nere appunto, far lievitare all'infinito il numero e le dimensioni degli schemi, rendendo le parole crociate un fenomeno editoriale e un gioco di massa. Inoltre già nell'antica Grecia e nel mondo romano erano stati composti quadrati di parole pur con la variante delle parole uguali che si incrociavano, e questo effettivamente è vero, ci sono iscrizioni tuttora visibili che prevedono sorta di cruciverba ante litteram, ma il gioco del quadrato magico era dato dal fatto che le parole erano leggibili appunto in più versi, sia appunto da destra a sinistra sia viceversa. Questo, tutto questo sul focus di questo mese. E ancora su Focus, un salto nel futuro con un contributo che è di Elisabetta Intini. Stanno studiando dei treni alimentati a energia solare, un incrocio tra un intercity, un autobus e un'astronave, puntuale si spera, soprattutto a impatto zero. I pendolari viaggeranno sospesi a poche dita dal suolo grazie all'energia più pulita che ci sia, quella solare. Lo sta studiando la Bombardier. Il convoglio è stato ideato dal designer Francisco Lupin, userà i raggi solari per alimentare un sistema di levitazione magnetica. È pensato per fare solo brevi spostamenti, avrà un pilota automatico, farà fermate a richiesta. Per scendere, ci avvisa sempre Elisabetta Intini, basterà schiacciare un pulsante sul bracciolo. Inoltre le poltrone saranno dotate di porte USB per ricaricare gli MP3, i computer e i cellulari, e ci saranno informazioni per i passeggeri proiettate sulle pareti in plexiglass. I pannelli solari sul tetto poi si modificheranno la loro inclinazione in base alla posizione del sole. Tutto questo è già un progetto, pare in fase avanzata. E verrà quindi prima o poi, speriamo presto, reso visibile anche nelle nostre città. Intanto vi voglio segnalare, abbiamo poco più di un minuto credo al termine della nostra puntata, vi voglio segnalare due consigli che trovate in edicola. L'uno in realtà lo trovate, l'altro lo troverete tra pochi giorni in edicola. Il primo consiglio: Viaggi del Sole. Come sapete, i Viaggi del Sole ogni mese vi propone una destinazione diversa. Insieme con Il Sole 24 Ore trovate questa settimana, questo mese, pardon, l'appuntamento con Madrid. Come sempre un volume in cui si scopre dove viaggiare, dove recarsi, dove dormire, dove mangiare, appunto nella capitale spagnola. E da giovedì invece Il Sole 24 Ore, per celebrare, per ricordare il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia, presenterà un'iniziativa che si chiama appunto Storia d'Italia, 12 volumi al prezzo di 12,90 euro da giovedì con Il Sole 24 Ore. Questo davvero è tutto, il tempo è scaduto, come mi ricorda Carmelo Lauricella questa mattina in regia. Grazie a lui, grazie anche ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questo programma. Vi ricordo che se volete risentire questa puntata o volete informazioni su Radio 24 potete collegarvi sempre al nostro sito www.radio24.it. Grazie, buona domenica a tutti.